Benvenute, benvenuti tutti quanti, buonasera, einen schönen guten Abend, herzlich willkommen. Ringrazio la signora Zappelli Zucker che questa sera è tornata di nuovo nella nostra biblioteca a presentare il suo ultimo libro. È già la terza volta che ci fa l'onore di presentare qui da noi i suoi libri. Abbiamo iniziato ancora nel 2007, se non erro. Abbiamo qui una vetrina con le sue pubblicazioni, ci siamo ritrovate dopo un paio di anni e adesso siamo di nuovo qui per una sfida. Abbiamo visto anche oggi l'articolo sul giornale e intanto anche le auguriamo di proseguire con la sua attività, che è molto apprezzata. Ringrazio anche chiaramente Maurizia Mazzotta Spitaler, che anche lei è già tornata, è già venuta nella nostra biblioteca come moderatrice. Questa sera ci accompagna nella presentazione di questo nuovo volume, e Le inquietudini della sora Elsa e altri racconti. La voce di questo libro sarà invece di Lorenzo Merlini, che salutiamo e ringraziamo per la sua collaborazione. Ecco, anche questa settimana la Biblioteca Provinciale Claudio Augusta organizza queste attività, come spesso ripeto all'inizio di ogni nostra attività, di ogni nostra serata e di ogni incontro con l'autore. Questo è un modo che abbiamo escogitato, ma che fanno anche altre strutture, per promuovere il patrimonio bibliografico, per avvicinare il lettore al libro, ma anche per creare delle occasioni di incontro con l'autore, che danno sempre un sapore particolare, ecco, al libro poi che ci si accinge a leggere oppure che si è già letto. Ne approfitto sempre per fare anche così, anticipare altri appuntamenti. Sulla sedia trovate altre due cartoline. L'appuntamento della prossima settimana a Naunio, l'antologia di studi, avrà un taglio prevalentemente più storico, con gli incontri della prossima settimana, come pure quello di giovedì 27, che sarà appunto la presentazione del libro Storia della bandiera italiana. Vi ringrazio ancora per la vostra attenzione, ringrazio soprattutto gli ospiti e cedo la parola alle nostre relatrici. Grazie ancora. Le finestre del primo piano erano chiuse già da tempo. 5 finestre in fila, 2 appartamenti vuoti, o meglio, disabitati. La sora Elsa, la portiera, avrebbe dovuto raccontare qualcosa, ma non molto, sui proprietari di quelle case, perché coi tempi che correvano sarebbe stato meglio tenere la bocca chiusa. In 20 anni di vicinato, con vari ministeri, soprattutto con quello degli interni, aveva fatto le più svariate esperienze con informatori, spie, falsi poliziotti e gente della pessima risma, tutti a chiedere di questo e di quello, ma lei niente. Nonostante il cattivo nome delle portiere romane, note per una naturale predisposizione al pettegolezzo, aggiunto alla congenita tendenza a non sapersi fare i fatti propri, lei sembrava appartenere a una razza speciale. Io so stare al mio posto, teneva a precisare, il che non escludeva una certa curiosità, appendice necessaria al mestiere che esercitava. Dei suoi condomini conosceva infatti vita, morte e miracoli. Per motivi professionali, come soleva sottolineare con un certo sussiego, era giusto che sapesse con chi aveva a che fare, chi dormiva sotto il suo stesso tetto e in generale cosa succedeva nelle loro case. Qualche famiglia però, per motivi personali, si teneva sulle sue. Si ammantava di un'insopportabile riservatezza, tanto che le poche notizie che riusciva a mettere insieme erano per lo più frutto di supposizioni e congetture, cui si aggiungeva una notevole dose di fantasia. La sora Elsa era una ciociara, emigrata nella capitale già da una ventina d'anni e dopo un certo periodo di tirocinio a servizio presso l'amministratore, il colonnello a riposo, De Santis, era il suo nome, dell'interno 4, in seguito alla morte improvvisa del portinaio, vecchio e già da tempo inefficiente, era riuscita a scendere giù nella sua guardiola, un po' per liberarsi dalle manacce troppo lunghe del suo padrone, che nonostante l'età non dava segno di volersi mettersi a riposo, e un po' per chiarire motivi finanziari. Da Lili Marlene alla sora Elsa, un viaggio direi quasi d'amore per presentare questo bellissimo libro della nostra autrice, ma non solo autrice, ma cantante lirica, pittrice, ecco, una donna poliedrica estremamente interessante che ha passato in questo bellissimo libro una serie di sensazioni, di emozioni, di ricordi, di curiosità, di dolori, c'è tutto in questo libro. È un libro denso, senza essere un libro pesante. È un libro che parte con questa donna che ha nella sua semplicità tutta la dignità di una portiera romana, che si può pensare appunto una pettegola, e che invece ha la dignità del suo lavoro e ha una grandissima sensibilità. Allora, Ada, come siamo partiti da questa donna, da questo personaggio, per introdurre un periodo poi storico con grande amore per la storia che lei dimostra? Come siamo partiti da una portiera romana? Allora devo dare qualche indicazione biografica. Questa portiera era la portiera di casa mia. Semplicemente, io abitavo in questo palazzo, abitavo in quelle finestre chiuse, che poi quando c'ero io naturalmente bambina non erano chiuse, e questa portiera esisteva veramente, era un personaggio favoloso, una vera romana, solida, sempre pronta, combattiva, proprio la classica romana. E anche la classica portiera, perché il carattere della portiera è inconfondibile. Ecco perché ho voluto, posso dire, mettere veramente sulla carta un personaggio che veramente merita. Credo che sia morta da non so quanti anni, però questo personaggio mi era tanto a cuore. Devo dire, io da bambina molto negativamente, perché non era molto gentile con i bambini, però mi è rimasta veramente dentro. Ecco perché ho iniziato questa raccolta mettendo questo personaggio in evidenza. Una delle problematiche che risaltano immediatamente in questo primo racconto, in questo libro sono 6 racconti con ambientazioni differenti, è il sospetto. C'è un po' questo sospetto, nel senso che questa portiera conosce tutti gli inquilini, i più riservati, quelli con cui ha più rapporti, quelli con cui ha meno rapporti, dalla signora che viene visitata dal gerarca, alla famiglia molto cattolica, coi bambini, all'amministratore, eccetera. Però c'è questo filo del sospetto, che è molto interessante, perché c'è questo discorso sulle religioni, dove si dice i cattolici vengono pagati per fare la spia, per dire dove c'è un ebreo, e lei protegge una signora ebrea che c'è in questa casa, lei è formidabile. Questo è un tema molto importante, perché di solito si dice sempre che è naturale, è vero, gli ebrei sono stati perseguitati, tutti erano contro gli ebrei, ma non è vero che tutti non si può mai dire. E proprio questa donna, così semplice e così in realtà umana, è stata una delle poche persone che ha veramente salvato la vita a un'ebrea. Questa storia si svolge nel 43, dopo l'8 settembre, chiaramente, no? Quando c'erano dei rastrellamenti nella città, quando tutti gli ebrei romani sono stati portati nel campo di concentramento, questo lo sanno tutti, però alcuni si sono salvati. e sono stati salvati appunto in questa forma così, senza nessun eroismo, senza nessuna esibizione di niente, perché in realtà il fatto di essere ebreo o di avere qualsiasi altra religione non significa che questa persona non sia un essere umano. Allora si salva l'essere umano e non la sua religione. Questo è un dato fondamentale ancora oggi ai nostri tempi, quando si parla tanto di islamismo, perché sappiamo tutto il perché, però si dimentica che dietro queste persone che vengono qui ci sono degli esseri umani, hanno un'altra fede, ma sono sempre esseri umani. Questo è per me una delle cose più fondamentali, il tema della religione. Si vede, si legge, ed è, per esempio mi ha meravigliato molto, lei ha scritto: dopo la distruzione del monastero di Monte Cassino, ora si aveva l'impressione che la guerra non rispettasse più nessuno, neanche la religione. Neanche la religione. Però la religione cattolica, perché c'è una contraddizione in questo, nel senso che forse la gente si accorge solo dopo quel momento. Esattamente. Quando vengono, beh, in realtà ognuno di noi ci accorge delle ingiustizie quando vengono toccati i nostri diritti, i nostri affetti, la nostra casa, la nostra famiglia. Allora improvvisamente c'è il grido di protesta. Come? Anche la nostra casa viene punita. Se è quella del vicino, magari diciamo, poveretto, ma quando è la nostra protestiamo. E questo è stato il momento, effettivamente qui credo non ci sia nessuno che abbia vissuto questo periodo veramente molto triste della storia italiana, quando effettivamente fu distrutto il monastero di Monte Cassino. Io ero una bambina e mi ricordo che mio padre era disperato, non per motivi religiosi, non era religioso, lo dico subito, ma perché sentiva che stava veramente crollando tutto. Anche il monastero di Monte Cassino veniva distrutto, senza badare a niente. Cioè, avrebbero potuto buttare anche delle bombe sul Vaticano, in realtà, dappertutto. Cioè, a un certo punto non c'era più rispetto di niente, non della religione cattolica o di quella ebraica, ma di quello che è la cultura di un popolo. E il monastero di Monte Cassino era una cultura, non dico dell'Italia, ma europea. E questa veniva distrutta, cioè senza riguardo per niente nessuno. E questo era veramente una cosa, e lo ricordo ancora, la disperazione di mio padre, non lo dimentico, benché fossi una bambinetta. Ecco perché mi è rimasto in mente questa storia di Monte Cassino. Dicevo prima che c'è questo libro è permeato di amore. Nel secondo racconto, che è la terza lettera, è il rapporto di un padre e di una figlia. È un rapporto epistolare, diciamo così. Il padre non sa più dove sia la figlia, non ne conosce neanche più il nome, il cognome. Difatti fa delle ricerche, però, insomma. E c'è questo aspetto che si ritrova poi anche più avanti, di queste famiglie spezzate, di questi uomini che partono per la guerra e che perdono ogni contatto con la loro famiglia. Lui vede la bambina appena nata, piccolissima, quindi in fondo non saprebbe neanche forse riconoscerla, certo. No? C'è questa frattura enorme nelle famiglie, e questo è dolorosissimo. È un viaggio sempre tra il passato e il presente. Questo uomo vive il presente, scrive alla figlia con cui vorrebbe riallacciare un certo rapporto, poi rivive il passato, ciò che è stato per lui la guerra, la prigionia, tutta questa pesantezza delle situazioni. Il passato qui non consente neppure di vivere il presente, perché è talmente pesante, il peso di questa guerra è pesantissimo e l'effetto sulle famiglie è tragico, devastante, è devastante. Ma questo è, purtroppo, devo dire che la maggior parte delle famiglie italiane più o meno non l'hanno vissuto così tragicamente come le famiglie tedesche, si capisce anche perché. Non bisogna dimenticare che gli ultimi prigionieri sono ritornati a casa nel 55-56, cioè 10 anni dopo la fine della guerra, e sono stati in Siberia, cioè hanno pagato duramente, questo è chiaro, l'errore o tutto quello che hanno combinato l'hanno scontato fino alla fine. E quindi non c'è più il senso della famiglia. Io volevo immaginare un uomo che ha vissuto quasi 15 anni fuori dalla famiglia e non sa più cos'è sua moglie morta in guerra, sa che c'è questa sua bambina, non sa più neanche come si chiama perché viene adottata e quindi non conosce neanche il nome di famiglia di questa bambina, però in un certo, cioè lui ha tentato di dimenticare di avere una bambina, ma più gli anni passano e più questa cosa ritorna, cioè lui ha qualcosa ancora al mondo. E infatti le ultime parole che scrive nella sua lettera è quella di dire: ma in fondo tu non dimenticare che senza di me tu non saresti mai al mondo. Questa è una delle cose più tragiche di lui, che ha distrutto tante vite, perché è un SS, che ha distrutto tante esistenze. A un certo punto si rende conto del valore della vita soltanto quando vede che la propria figlia, perfino la propria figlia, gli viene a mancare. Ma se non sbaglio c'è un brano da leggere, sì. Devo anche ammettere che trascorrevo le mie giornate non con voi, la mia famiglia, la mia nuova famiglia, né con i miei genitori, ma in giro per la città. Cercavo le case, le strade, i luoghi a me così familiari, spariti sotto mucchi di macerie. Dopo ogni nuova incursione mancavano altri palazzi, altri monumenti, altre piazze. Tutto si frantumava, tutto crollava. La mia amata città cambiava faccia. Ero attonito. Un dolore nuovo e un senso di impotenza mi stringeva la gola. Dolore, rabbia, sono gli unici sentimenti che mi rimangono di quel periodo. Non veniva distrutto un popolo, ma una cultura, la nostra grande cultura. Andavo per le strade carico di odio e non sapevo come sfogarlo, con chi prendermela. Per la prima volta mi resi conto di come dovesse stare quell'altra gente, dove portavamo la stessa distruzione, le stesse macerie, la stessa morte. Ma quello è un popolo senza cultura, ci era stato insegnato. Uomini di razza inferiore, un pericolo per l'umanità. Ma anche loro erano disperati, posso testimoniarlo, l'ho visto coi miei occhi. E la disperazione non conosce razza né cultura. Sono tornato al fronte desolato. Mi sembrava di aver perso ogni senso di orientamento. Non capivo più niente. Ecco, qui c'è questo senso di disorientamento, però questo ruolo forte della cultura. Questa è una cosa alla quale tengo moltissimo. Io devo subito sottolineare che vivo da 40 anni in Germania e che amo moltissimo la cultura tedesca, ma l'amavo già prima di andare in Germania, perché come le ha detto, io sono una cantante e soprattutto cantante di Lieder, cioè conosco la letteratura e la musica tedesca e naturalmente anche quella italiana. Io ho sempre avuto un particolare amore anche per la lingua tedesca e posso dire che questi 12 anni hanno tentato di distruggere una cultura che è una cultura molto importante, soprattutto nel 700 e nell'800, una cultura veramente molto grande. E la maggior parte del mondo, attraverso questi 12 anni, ha dimenticato la grande cultura tedesca. E io volevo, infatti ho dedicato questo libro al popolo tedesco, perché io li capisco molto, io so quanto soffrono ancora, dopo tanti anni, di queste colpe che si sono addossati, e fa parte, qui si potrebbe fare un lungo discorso, perché loro hanno agito così e non altrimenti. Ci sarebbe da dire moltissimo, questa è la differenza. Esatto. Sì, molto, molto. Ad ogni modo, per me era molto importante dire che nonostante questi 12 anni in Germania adesso si comincia a ricostruire una cultura. E non dobbiamo mai dimenticare che le città tedesche, per esempio Monaco, dove avviene questo racconto, è stata distrutta per il 70%. Il 70% significa che praticamente non è rimasta una pietra sopra l'altra. E quando io vedo vecchie fotografie di Monaco, quelle di adesso non si riconosce più. E quindi si può immaginare quest'uomo che viene dalla guerra avevano sempre delle piccole licenze, arriva e non ritrova più la sua città. Deve essere stato, secondo me, uno shock spaventoso. E questo lo ha reso anche cosciente di quello che loro facevano altrove. È molto importante per me. Lui dice una frase, secondo me, netta e profonda. Dice, dopo aver letto qualche libro, mi si sono chiarite le idee. Ora che non serve più a niente. Cioè, si rende conto che era già troppo tardi. Ormai era finito tutto. Lui, è, in realtà, una cosa che noi tutti non sappiamo è che quando loro sono andati in Siberia prigionieri, lì hanno fatto dei corsi che si chiamava Antifa, antifascismo, per rieducare il loro cervello contro veramente spostamento, ma proprio spaventoso. E lui, man mano che veniva educato, rieducato il suo cervello, ha cominciato a capire quello che effettivamente hanno combinato loro, perché non erano affatto coscienti. Questo è frutto anche dell'educazione che hanno ricevuto. Le scuole erano tutte in mano naturalmente ai nazisti. La prima cosa che hanno fatto i nazisti era quello di mettere in le scuole, questo è un tema che poi torna nell'ultimo racconto, le scuole sono state il posto fondamentale di educazione della nuova generazione. E questo devo dire che non è soltanto stato in Germania, ma è dappertutto. Uno dei primi compiti di qualsiasi regime politico, sia democratico o no, è quello di educare i giovani secondo la loro idea. Così che la maggior parte della gente esce di scuola e sa soltanto quello che gli altri vogliono che sappiano, ma non quello che è veramente stato. Questa è una delle cose più gravi di cui non siamo coscienti, veniamo manipolati. E lui si accorge di essere stato manipolato quando ormai la guerra era finita, quando tutto quanto era tornato, per modo di dire, alla normalità. Questo è un fatto. Io ho notato, per esempio, che Hitler non viene mai nominato con il suo nome. Si scrive lui maiuscolo, L-U-I maiuscolo, perché c'è un rifiuto anche del suono, io credo. Esatto, proprio, preciso. Ecco, questa cosa è proprio... L'ha notato molto bene. Sì. No. Un'altra cosa, sempre in questo racconto, c'è una piccola parte sul ruolo della patria, una riflessione sulla patria, sul concetto di patria, e si dice che nessuno è più disposto a combattere per questa patria. Si uccide ancora, ma per altri motivi. È vero. Ormai la patria è una parola che veramente nessuno più osa dirla, perché è stata missbraucht, si dice in tedesco. È stata, come si dice in italiano? Abusata in modo così vergognoso dai fascisti italiani, dai nazisti. In tutti i regimi autoritari la patria viene veramente maltrattata, cioè la parola patria. Così che adesso c'è un rifiuto di questa parola, anche se in realtà la patria resta. Però il simbolo, questa simbologia che hanno voluto dare, non c'è più, per fortuna. Devo dire per fortuna, io non dico mai la patria. A parte che ha anche a fare con padre, e mi dà un molto fastidio, perché non si potrebbe dire la madria? In fondo siamo tutti diretti discendenti delle madri, no? E come la mettiamo con la Heimat? Quello è un altro discorso. Stessa cosa che in tedesco si dice Vaterland. Appunto. E questo è un discorso molto, molto, perché ha a che fare Heim con la casa. Sì. E questo è un altro discorso. Allora non è più la patria, perché meine Heimat è la mia casa, è il mio cortile, è sempre più ristretto, sono io stessa la mia Heimat. alla fine, no? Quindi non siamo più politici. Nel terzo racconto, che è La generazione del silenzio, è praticamente una storia speculare rispetto alla prima, nel senso che è una figlia che fa un viaggio anche un po' liberatorio, direi, senza, non programmato, diciamo così precisamente, perché lei si lascia trasportare. Molto carina questa cosa che lei viaggia in Italia senza biglietto del treno, perché intanto gli italiani non controllano, questo è giusto una... Ma è vero! È vero. Quante volte viaggio, io ho il biglietto ma nessuno viene a controllarmi. E lei allora... vuole andare esattamente per l'anniversario dell'attentato di Via Rasella, dove c'era il padre. Sappiamo che in Via Rasella nell'attentato è stata colpita una compagnia di sudtirolesi. Questa la storia viene poco studiata, credo che i nostri ragazzi non sappiano assolutamente neanche, cioè forse pensano che c'è McDonald's in Via Rasella, ma non sanno cos'è successo. Anna, è così, sì, questo è un libro da far leggere ai ragazzi, perché c'è un materiale incredibile dentro. Storico, sì. Non è un libro scolastico, ma un libro didattico, direi. Grazie. No? Prego. E insegna e riporta e apre orizzonti e apre riflessioni. Soprattutto per i giovani. Soprattutto per i giovani, soprattutto. Questa la Via Rasella viene citata due volte, nel primo racconto della sora Elsa, dalla parte degli italiani, dalla parte degli italiani, e di nuovo qui dalla parte dei tedeschi. Ecco, questo volevo chiedere. C'è un'intenzione dietro, perché naturalmente ognuno vede la propria parte. Gli italiani sono le vittime che poi finiscono alle fosse ardeatine, mentre qui invece sono i tedeschi o i sudtirolesi, o come li vogliamo chiamare, che sono le vittime. Quindi vediamo le due parti opposte, che sono poi tutte vittime alla fine. E questo, per questo ho messo questi due racconti. In realtà l'editore li ha voluti spostare, secondo me erano da mettere uno dietro l'altro, ma l'ho fatto così. Qui c'è molto presente il ruolo della memoria, il discorso sulla memoria. Allora, la memoria in queste persone che sono state prigioniere, che sono andate in guerra, è un dolore ricordare, vogliono dimenticare, vogliono assolutamente dimenticare, però per poter dimenticare devono forzatamente ricordare, cioè è una specie di circolo. Sì, ma questo è il strano. Problema della rimozione. Questo è il problema della rimozione, sì. Via. Il ruolo della memoria è importantissimo, però io mi chiedo se davvero l'orrore di tutti quegli anni può sparire con la morte dei testimoni. Ecco. No, questo qui infatti, questo racconto ha un tema, ha un titolo, e cioè La generazione del silenzio. C'è stata tutta la generazione che ha vissuto la guerra che taceva. Questa è una cosa molto interessante, perché in realtà la rivoluzione del 68, della quale si parla tanto, in vari paesi ha avuto dei motivi diversi. Quella della rivoluzione in Germania nel 68, 69, 70 è stata quella dei giovani che hanno preso i genitori e li hanno sbattuti contro il muro e dice: parlate. Perché non parlavano, non raccontavano mai niente, i nonni non dicevano mai niente. Questo. E questa è una cosa, cioè loro hanno rimosso, hanno messo veramente, e questo lo hanno fatto però non soltanto i cosiddetti carnefici, neanche quelli, per esempio chi ha veramente rimosso duramente sono stati proprio gli ebrei, quelli che hanno sofferto più di tutti, sono quelli che non hanno mai aperto bocca. Perché il ricordo di quelle umiliazioni, di quel veramente degrado umano, li ferisce ancora e li ferirà fino a che vivono. E la cosa più grave è che feriscono anche i figli, anche i nipoti. Sono delle ferite così forti che qualsiasi devono passare, non so, credo, 200 anni, fino a quando si possa dire sì, allora, così, con molta tranquillità. Questo è un problema grossissimo che io vedo ancora in Germania. Io ho sempre molte difficoltà a parlare di questo tema e ho delle persone molto amiche, molto, che mi sono molto vicine, con le quali è molto difficile parlare di queste cose, perché sento che sono ancora le ferite aperte. Questa è una cosa fondamentale. Devo dire che, scusate se lo dico, gli italiani sono stati di una superficialità fantastica. Il fascismo, via, i fascisti sono tutte persone venute da un altro posto, chi li conosce, dove sono? Non c'era più nessun fascista e non se ne parla nessuno parla più dei fascisti, cioè di quello che hanno combinato loro, che hanno cominciato loro in realtà, hanno dato loro l'esempio a Hitler, come si fa, ecco perché il motivo di questa grande amicizia, dell'ammirazione di Hitler per Mussolini. Questo però non se ne parla, non si dice. Scusate, sono molto polemica. Oddio, mi devo... Va bene così. Ma io mi chiedo anche se, per esempio, proprio parlando di giovani, questi movimenti di matrice fascista e nazifascista che ci sono anche... Ancora adesso. E sono anche... Forti. Nascono soltanto dall'ignoranza di questi fatti. Allora se fosse parlato di più... Certo. Giusto, giustissimo. Lei, io non posso aggiungere altro. Se si fosse parlato, se qualcuno avesse veramente raccontato come sono andate le cose e non glorificato come adesso che non capiscono, non sanno niente, allora non sarebbero nati questi movimenti neofascisti o neonazisti. Questa è la realtà, è il punto giusto. Io non so come sia in Germania, però in Italia la storia si arriva sì e no a Weimar e poi finisce l'anno scolastico. E a settembre si ricomincia con gli assiro-babilonesi di solito, no? Cioè c'è un buco nella formazione impressionante. Ancora. Ma questo ancora. Era ai miei tempi quando io andavo a scuola. È rimasto uguale, cioè i nostri ragazzi arrivano fino a un certo punto, ma quello che è la storia contemporanea del Novecento è ridotta a zero, ed è invece quella che dovrebbe essere... Certo, ma soprattutto i ragazzi dovrebbero imparare queste cose, soprattutto è quella generazione, quella lì che scusate mi intrometto in un tema, quella che va a protestare e a picchiare tutti quanti, ma dico, sapete cosa sapete voi della storia, di quello che è stato, chi ha costruito questa Italia, quelli che hanno finito la guerra, negli anni 45-50 fino al 60 è stata costruita l'Italia e adesso la state distruggendo, scusate, di nuovo passo i limiti io. Introduco questo terzo racconto che è Incontro ad Altea, così poi possiamo fare una lettura. La storia di una donna che si chiama Erna e che vive in Spagna, ad Altea. E qui c'è un aspetto molto carino, a me è venuto in mente subito Maiorca e tutte queste cose, a Maiorca ormai si beve caffè tedesco, si mangia strudel, cioè è colonizzata. Però no? Una colonia questa inglese. Eterna, questa, sì, questa eterna vacanza, che poi è più alienante della vita normale, faticosa e problematica, perché sei sempre in vacanza, devi occuparti, è terribile questa la cosa, noia. Comunque. No. C'è un pezzo molto bello, che forse lo possiamo leggere. Sì. Volentieri. Sulla religione. Le chiedo questa volta, sperando di non fare una nuova gaffa, se si considera ebrea o cristiana, dato che fu battezzata alla nascita e i tuoi genitori erano anche loro cristiani. La mamma però era ebrea. Questo lo aggiungo io. Un ultimo sguardo sorpreso. Lei non si è mai considerata ebrea o cristiana. Ha negato la necessità di appartenere a una religione. Per credere in Dio non è necessario un intermediario. In questi anni non è passato giorno senza che non mi sia chiesta il senso di tutte queste credenze, usanze, riti. Per me Dio è ovunque, in noi e fuori di noi. Non ho bisogno di un prete né di un rabbino e tantomeno di una chiesa per mettermi in comunicazione con Lui. Non è stato facile mantenere la fede, soprattutto in quegli anni, ma mia madre me l'ha bene inculcata nel cuore. Dico cuore, perché nel cervello è difficile aver fede in chi in realtà ti lascia sola. Sola. Spesso neanche con te stessa. Dio non mi ha mai aiutato, non ha mai aiutato nessuno, forse non può farlo, non rientra nei suoi compiti. Solo gli uomini possono aiutare gli altri uomini e lui non è un uomo, è al di fuori di tutto, al di sopra di noi, immortale. Non conosce la morte, la sofferenza dei mortali. Con tutto ciò, resta per me l'unico legame, l'unico filo di congiunzione con mia madre. La fede in Dio è l'unica eredità, la sola cosa che mi ha lasciato. Io lo trovo quasi rivoluzionario, scusate il termine, però è bellissimo questo. Io veramente vorrei averlo scritto io, sinceramente, perché proprio... Grazie. Io non ho parole su questo. Non ero molto cosciente. È un discorso molto importante. Sì, perché Dio è uno solo, non c'è un Dio ebraico né uno islamista, né ce n'è uno solo. E se c'è Dio, allora non si può attribuire a Lui le qualità umane. È qualche cosa al di fuori di noi. Questo, se si crede a questo, ed è una questione non di cervello ma di cuore, cioè la fede non può essere dettata dalla razionalità, allora bisogna veramente capire cos'è il senso di Dio. È qualcosa che va al di fuori dalle chiese, dalle varie religioni, da tutte le organizzazioni, da tutte queste cose. È qualcosa che è al di sopra di noi. Vorrei anche aggiungere che se fossimo un po' di più a pensarla così, ci sarebbero meno problemi, meno guerre di religioni, meno tensioni, meno attacchi, meno esportazioni di democrazia, meno tante cose. Tante cose, soprattutto ecco. Il senso di superiorità, la mia religione è migliore della tua. Esatto. E questo qui è veramente un'aberrazione della religione. Credo che se ci fosse Dio si metterebbe la mano ai capelli, no? Dire ma cosa stanno combinando questi umani? E in questo racconto c'è anche, dicevo prima che i racconti sono ambientati a Roma, sono ambientati in Germania, ce ne sono anche ambientati in Austria, e il ruolo dell'Austria è sempre un attimo subalterno, cioè ci si dimentica quasi dell'Austria, perché nonostante Hitler fosse un austriaco, quando noi italiani, poveri superficiali italiani, pensiamo al nazismo. Questo l'ha preso sul serio. No, io ho anche un cognome tedesco, quindi non ho problemi. No, si pensa più alla Germania, no? Mentre l'Austria è stata annessa, ridotta anche un po' a regione. Però ha vissuto totalmente. Ma loro lo volevano. Periodo esatto. Però non pensiamo mai all'Austria in questo senso. È difficile. Ma sì. Loro contribuiscono moltissimo. Assolutamente. Loro giocano col fatto che sono state vittime. E invece loro già. Esatto. Dunque, devo dire che il nazismo è nato già nel 1890 all'incirca a Vienna. Questo non si dice mai. Mai. Mai. Dunque tutte queste riunioni naziste eccetera, perché Hitler non è certo nato in Germania, cioè la sua idea, lui se la portava già da Vienna. però gli austriaci, mi scuso moltissimo, intanto non mi capisco, c'è un'austriaca qui venuta proprio da Vienna, che non, spero che non capisca quello che dico io, che si sentono ancora adesso vittime. Questo è il colmo. Ma come centinaia, veramente migliaia di persone, e qui c'è in questo racconto, sono andati alla Heldenplatz, alla piazza di ad applaudire finalmente, a piangere di gioia, finalmente facciamo parte del grande Reich. Ma disgraziati, si è diventata una provincia, hanno perso perfino il nome di Austria. Ostmark. Ostmark. Hanno perso perfino il nome. Certo, c'erano anche lì gli antinazisti, questo bisogna dirlo, ma la maggior parte, la massa, questo è il discorso della massa. La massa era felicissima, finalmente, di far parte del grande Reich. Vagliela dire agli austriaci adesso. No, questo qui è un discorso veramente che dà un fastidio enorme agli austriaci, perché loro sono se noi siamo stati annessi, che annessi? Voi avete aperto le braccia quando sono arrivati i soldati tedeschi a buttargli fiori sui carri armati, ma stiamo scherzando? Va bene, questo è un altro discorso. Vedete, sono molto di quante cose ci sono in questo libro. Ecco, il penultimo racconto è la raccolta della legna. Sì. E devo dire che però è un racconto che mi ha colpito moltissimo, perché c'è questo aspetto della guerra vissuto da una bambina. Io ho lavorato tanti anni con i bambini, quindi questo linguaggio che usa la bambina per me è una cosa di una tenerezza incredibile, perché vede le cose con altri occhi, non ha questo... E quello che sono stati i danni della guerra poi sui bambini, cioè quello che i bambini si sono portati dentro e che durano una vita, sì, no? Una vita, chiaro. Che forse si pensa, beh, insomma, un bambino gli passa, si dimentica, non è vero niente, un bambino è un foglio di carta bianca dove le cose vengono scritte e restano. C'è molta ironia in questa bambina e c'è un senso dello stupore che è bellissimo, è pulito, è proprio bello. Ed è poi quel rapporto con la nonna, sì, è un rapporto forte, emotivo, di riferimento, proprio, certo, veramente una cosa... Io posso solo dirvi, leggetelo, perché è veramente fantastico. Possiamo leggere questo però pezzo? Sì, sì, sì. Del padre, la nonna aveva solo detto che aveva raggiunto il resto della famiglia qualche tempo dopo. Prima però era andato a fare la guerra e lì era caduto. Così aveva detto, lo ricordava ancora. Se è caduto, perché non si è subito rialzato? Aveva voluto sapere. La nonna aveva risposto che cadendo si era fatto tanto male da non potersi più rialzare. Strane storie, mi racconta la nonna, aveva pensato. Se non è riuscito ad alzarsi, come ha fatto a volare fino in cielo? Non osò importunarla ancora, ma quel pensiero non le dava pace. Qualche giorno dopo, di palo in frasca, se n'era uscita con un'altra domanda. Come ha fatto a volare se non riusciva neanche a rialzarsi da terra? La nonna l'aveva guardata un momento mentre mescolava la minestra, curva sul fuoco, e aveva cercato di capire. Lei non si era accorta di quel vuoto mentale e subito aveva aggiunto: il papà, hai detto che il papà, la nonna l'aveva interrotta. Non sapeva come farle capire che non il papà, ma la sua anima era volata in cielo. L'anima, quello sì, era un concetto difficile da spiegare a una bambina di 6 o 7 anni. Ci aveva pensato un momento, poi le aveva raccontato di come ogni essere vivente racchiudesse in sé un'anima. Senza anima nessun corpo avrebbe potuto vivere. C'è, ma non si può vedere. A un certo punto Dio decide di richiamare le anime a sé in cielo e queste, libere, leggere, senza il peso del corpo, felici di questa grande libertà, spaziano fra le nuvole. Questo si chiama morte per me. Con la saggezza di questa nonna, è straordinaria, è straordinaria, perché spiegare a un bambino dei concetti così è difficile. Forse solo un'anima pura e semplice può spiegarlo con una chiarezza e una sensibilità così grande. Anche se questo è un racconto molto duro, Sì. Ma non può esserci tutto duro, Ci devono essere questi momenti anche di luce, e ce ne sono anche molti. Guai se non ce ne fossero. In fondo è la luce che ci fa andare avanti, no? Non sicuramente il buio. Ecco. L'ultimo racconto è l'ultimo testimone e affronta un argomento di cui, come dicevo prima, i ragazzi non sanno nulla, che è il movimento della Weiße Rose, della rosa bianca. Ecco, esatto. Però i nostri ragazzi non l'hanno mai studiato, almeno. Questo io non lo so, in Germania però lo sanno tutti, cos'era la Weiße Rose. Cioè, chiaramente, questo è molto importante. Questo è un uomo, il signor Müller, che è stato un prigioniero politico. Vorrei che... Dunque, il signor Müller, devo dire subito che è il mio vicino di casa. Abita proprio all'angolo della mia casa. E lo conosco perché il suo figlio era l'amico fraterno di mio figlio. E quindi qui ci sono tante cose abbastanza buffe, perché ho voluto finire veramente un po' allegramente, di questi due ragazzini e dei racconti che faceva questo ragazzino di questo padre, della nonna. Per esempio, lui diceva che il suo padre vendeva cappelli per le lampade, cose insomma assurde. Lui viveva però molto a casa nostra. E sapevo però che questo suo padre era il presidente della Rosa, della Weiße Rose. E un pomeriggio lo incontro e lui mi fa, io faccio una specie di intervista, ma è vero, questo racconto, devo subito dire, l'ho scritto subito dopo che sono tornata a casa, ho detto ma questo proprio me lo devo scrivere. Ed è effettivamente come una specie di intervista. Sì. Questa qui è la storia di questo Franz Müller. Chiedo invece della scuola, di come erano gli insegnanti, se erano tutti nazisti convinti, di come trattavano gli scolari. Mi risponde nuovamente irritato: come posso pensare a una tale assurdità? Adesso la gente pensa che tutti i tedeschi fossero nazisti. Non è vero. Di 20 insegnanti, per esempio, 5 lo erano per intima convinzione. 5 seguivano gli ordini che venivano dall'alto senza darsi troppi pensieri, e gli altri erano del tutto normali. Noi capivamo subito che con chi avevamo a che fare, dal modo in cui salutavano. Appena entravano in classe non dicevano certo buongiorno, come si fa oggigiorno. Per ordini superiori ogni professore aveva l'obbligo di alzare il braccio e di gridare «Heil Hitler!». Dal modo in cui sollevavano il braccio, e mi creda, c'erano vari gradi, e dal tono della voce potevamo capire cosa ci stava dietro. Mi mostra i vari modi di salutare, alzando e tendendo il braccio, riducendo poi man mano il movimento fino ad arrivare a un breve cenno dell'avambraccio. È molto chiaro? Mi piace che gli antinazisti o antifascisti erano normali. Questo concetto mi piace molto. Per fortuna ce ne sono sempre. Questo è molto importante però. Questo movimento io ho visto soltanto nell'ultimo periodo che è stato un po' almeno qui su Tirolo. Si è discusso un po', si sono stati fatti degli incontri. È venuto qui? Forse, è venuto sì, forse è venuta a Bolzano, io lo so. Sì. Ah, sì. Sì, sì, sì, sì, certo, certo. Per cui qualche cosa si risveglia ogni tanto, diciamo, però poco fa. Sì. Ma lei lo sa che in Italia c'è da 31 anni la rosa bianca? La rosa bianca. Io sono stata, questo bisogna che lo racconto perché mi ha sorpreso moltissimo, quest'estate ho fatto un seminario di cultura politica, perché la politica mi interessa tantissimo. Organizzata dalla Rosa Bianca. Sono stati 3 giorni intensissimi, bellissimi. Ha parlato anche Romano Prodi, ha parlato il presidente della Corte Costituzionale, professore di filosofia politica dell'università, eccetera. È stata una cosa ad altissimo livello. Ma la cosa che più mi ha impressionato era il discorso iniziale della presidentessa attuale. Il titolo era La bella addormentata e svegliata non dal bacio di Machiavelli. E la cosa è molto bella perché lei ha spiegato il senso di questa bella addormentata. Noi normalmente leggiamo le fiabe e pensiamo sono per i bambini, invece ci sono dei simboli molto forti. Cioè in realtà il popolo si addormenta e tutti restano veramente paralizzati fino a quando arriva questo momento in cui si deve svegliare, e allora ricomincia la vita. Ed è questo il momento della Weiße Rose in Germania, quando la guerra stava quasi finendo e questi ragazzi hanno cominciato a buttare dei volantini e dire guardate che quello è un disgraziato, è un assassino, stiamo facendo così e così, hanno pagato con la vita. E questo signor Müller, questo è molto importante, è sopravvissuto per un motivo fondamentale, perché lui era minorenne, ma tema molto più importante, era alto 1,90 m ed era biondo. Allora il giudice ha detto un tipo così ariano come questo ragazzo non può essere un antinazista e lo hanno messo in un carcere per politici. È stata la sua salvezza. È una cosa assurda, ma è andata proprio così. E questo qui veramente è un esempio veramente eccezionale di come la superficialità e la mediocrità umana veramente possa sempre andare al di sopra di certi valori veramente fondamentali. Mettiamo caso avesse avuto i capelli neri o questo qua lo mettevano, l'avrebbero ucciso come hanno ucciso gli altri che avevano tutti i capelli neri, Sofia Scholl, suo fratello, tutti quanti i capelli neri. Queste sono le aberrazioni della storia, purtroppo. Io le ringrazio molto, vorrei sapere se c'è questo folto pubblico qualche domanda per lei, io lo spero tanto. Abbiamo messo tantissima carne al fuoco tanto. E devo dire che ci siamo anche trattenuti perché io avevo trovato lei aveva trovato una io quantità trovato di cose tantissime detto, cose perché non veramente sì lo so perché abbiamo poco tempo però è molto interessante e apre veramente a molte domande e a molte. L'ultima conclusione che mi permetto di fare è questa, che secondo me la letteratura ha soprattutto una funzione informativa, di informazione. Quello che la maggior parte delle persone che sono qui, penso, con qualche eccezione non voglio dire, non vanno a prendere un libro di storia così alto sulla storia del nazismo, ma che pizza, no? Non lo fanno. Questo vuol dire che a un certo punto molte informazioni mancano. Allora, se si fa un racconto in modo abbastanza sciolto, così leggibile, si informa e si interessa il pubblico. E questa è per me è la funzione della letteratura. Non è soltanto uno sfogo emozionale, ma c'è anche lo sfogo emozionale, però c'è anche questo fondo politico, perché in realtà noi viviamo nella politica e non ce ne accorgiamo nemmeno quasi. Noi siamo sempre coinvolti e manipolati dalla politica. E la cosa importante è che noi siamo dei singoli, ognuno occupato con se stesso, però viene dominato dall'alto e non ce ne accorgiamo. Questa è una delle proteste più grandi che ho io, per dire rivoluzione, e la rivoluzione si fa soltanto con la conoscenza. Grazie. Allora, se qualcuno ha qualche domanda, io sono sempre pronta a rispondere alle domande. Adesso è andata via quella che fa le domande sempre, mamma mia che sfortuna. È molto importante che qualcuno ha delle domande da fare, tu parla, dimmi. Intanto non sono d'accordo con l'affermazione che hai fatto che la letteratura è informazione. Dovrebbe neanche. Cioè, la letteratura deve essere qualcosa di più profondo, al di là dell'informazione, deve essere qualcosa che coglie il senso di alcuni fenomeni dall'interno, non un'informazione che si può trovare. Questo non l'avevo pensato neanche io. Beh, così l'hai espresso, ma comunque so che non è così. Sì. Invece io volevo sapere qual era il motivo, perché sembra che tutti questi racconti hanno tutti a che fare con la guerra, no? Sì, sì, quello ecco, è il filo conduttore. Che cosa è solo una questione di memoria o c'è anche qualcosa di più profondo? L'Europa non è in guerra da un sacco di tempo sull'Europa, però è continuamente in guerra da altre parti. Allora c'è questo, c'è un senso di richiamare questa cosa di cui non si parla più, perché si parla di guerre umanitarie, di cose così, però sembra che il senso di ciò che si è vissuto storicamente sia impacchettato, finito, insomma, no? Allora è la voglia di invece richiamare questo? Esattamente, perché no, in realtà non possiamo mettere una pietra sopra su quello che siamo quello che è stato, perché noi non possiamo costruire un futuro se non conosciamo il nostro passato. Qui nasce quello che io chiamo la coscienza storica. Se non abbiamo una coscienza storica non possiamo mettere le basi sulla nostra personalità, sulla nostra identità anche nazionale. Senza questa coscienza noi siamo al presente soltanto, siamo veramente delle mosche che volano e scappano via, ma noi abbiamo un passato molto pesante, tutta l'Europa ha un passato molto pesante e sarebbe molto opportuno che venisse conosciuto. Perché allora si potrebbero fare delle riflessioni anche sul presente, cose che non si fanno. Questo per me è il motivo. Naturalmente ho detto informativo, nel senso non così superficiale né giornalistico, cioè c'è molta emozione, ci sono storie umane, tutte storie umane di persone coinvolte con fatti che non riescono a spiegarsi. Perché come si riesce a spiegare una guerra? È veramente impossibile, una contadina, una persona, una portiera, come fa a spiegarsi il senso della guerra? Impossibile, però ne subisce le conseguenze. E quello è quello che subiamo noi sempre. E quindi, secondo me, non li ho scritti tutti in una volta, sono anni che ci ho lavorato, una volta uno, una volta l'altro, ma secondo me era di estrema importanza, veramente ne sentivo il bisogno di dire, guardate, noi facciamo parte di questa storia, non la possiamo mettere dietro le spalle, dobbiamo conoscerla. Io sono sempre alla ricerca, io ho una biblioteca tutta di libri di storia, pochissima letteratura, cioè ne ho anche di letteratura, ma quando ero giovane leggevo molta letteratura. Le cose che più mi affascina adesso da molti anni è la storia, perché siamo noi la storia, l'abbiamo fatta noi, l'abbiamo vissuta noi. Questo è il mio punto. L'abbiamo subita. E l'abbiamo subita, giustissimo. Ma cos'ha a che fare questo con l'essere a cavallo di due culture, italiana e tedesca? Io ieri ho visto una fotografia di di quello che ha fatto un architetto ebreo per il Museo della Storia Militare, no? Ed sono rimasta scioccata, colpitissima. Qui a Bolzano? No, in Germania. Ah, in Germania. Ha fatto un cuneo di cristallo e acciaio che irrompe in questa vecchia ottocentesco palazzo, no? Irrompe così, come se la guerra e il, perché questo era un museo, certo, di storia militare, insomma, certo, no? Certo. Qualcosa che irrompe all'improvviso e stravolge praticamente tutto, insomma, no? Sì, sì, sì, sì. E mi chiedo, lui l'ha fatto un ebreo, mm-hmm, no? E mi chiedo se, qual è il senso, cioè, io capisco, intanto essere a cavallo di due culture, sì, sì, e poi questa idea di qualcosa che irrompe all'improvviso, che noi pensiamo non potrà mai più succedere. No, invece è altro, io penso che... altro che. No, io posso dirti questo, che in Germania si sente ancora moltissimo la Seconda Guerra Mondiale. È un peso ancora, su tutti. Ecco perché si dice che il popolo tedesco è molto pessimista, molto pesante, eccetera. Questa guerra ce l'hanno ancora sulle spalle. È proprio attaccata qui dietro, eh? Non è come qui che si è dimenticato. Lì non si dimentica niente. Questa è un po' la differenza fra il popolo italiano e il popolo tedesco. Gli italiani sono, vivono alla giornata, dice viviamo e lasciamo vivere. Invece i tedeschi sono molto, in questo senso, molto pesanti, molto profondi. Loro hanno un modo di sentire completamente diverso da dal popolo mediterraneo o italiano, quello che si vuol dire. Hanno una grandissima ammirazione per gli italiani. E anche l'invidia, perché la gente, gli italiani, sanno godere. Loro non sanno, sempre si fanno mea culpa, dalla mattina alla sera, oh. Stanno così, ma sempre mea culpa, ancora adesso. E questo qui non si sente. Sì, sì, ma condivido, perché... però non noto, almeno io sono spesso in contatto con persone germaniche, non noto questi retaggi. Io non li noto, che siano tragici, come già da tempo Nibelungen vuol dire, lo sappiamo, no? Cioè, c'è tutta una storia, che hanno quindi tutta una mentalità diversa, certo, certo. Ma non vedo questi retaggi della Seconda Guerra Mondiale. Io, parlando con le persone della mia età, per non parlare di persone più giovani, certo, ma dalla politica lei lo sente sempre, che viene sempre messo l'accento, non dimentichiamo cos'è accaduto. Io seguo moltissimo questo qui, non c'è un politico che non si ricordi giorno per giorno, dica state molto attenti, noi abbiamo fatto questo, mea culpa, questo lo fanno molto. Dipende dalle generazioni, i giovani dice basta, ci siamo stufati, adesso vogliamo, questi sono i giovani, diciamo, fino a 30 anni, 40 anni, ma quelli dell'altra generazione ancora adesso soffrono. E questo lo so perché io ho a che fare con questa gente. E poi sento anche moltissimo le trasmissioni televisive, che hanno ogni giorno una trasmissione alle 8:15 sulla Seconda Guerra Mondiale. E caspita. Ma come ce l'abbiamo anche noi? Cioè, sì. Diciamo che alla fine, se posso intervenire, ho visto che comunque i programmi più gettonati sono questi report e questi documentari storici, con tutte le tacherai, filmati luce che vengono continuamente riproposti, fanno da decenni, ecco. No, per quello, da questo punto di vista non è che siamo indietro, anzi c'è da dire una cosa, questa è una riflessione che faccio io, però appartengo a una generazione di quarantenni che secondo me è la generazione insieme ai trentenni e ventenni una delle più schiacciate in questo momento, almeno in Italia, perché sono schiacciati dai genitori e dai nonni, se ci sono ancora, e nello stesso tempo c'è questa spinta molto forte dei trentenni. Noi non ci siamo espressi e non ci esprimeremo più da un punto di vista politico, questo poco ma sicuro. Invece, e anche da un punto di vista civile, facciamo molta fatica a trovare dei margini, lo vede anche in Italia, insomma i nostri rappresentanti sono molto datati, ecco, non è che abbiamo dei rappresentanti molto più giovani come magari in altri paesi europei. Questo era un primo pensiero. Il secondo, come persona che viaggio sui 45 adesso, e le dico che è vero, al liceo abbiamo finito il programma ritornando per la terza volta dall'asilo bambino Nesi in poi, però abbiamo finito parlando anche del lager di Deresia, quindi insomma, ecco, la consapevolezza che anche qui in quest'isola felice ci sia stato del marcio, l'abbiamo capito e conosciuto tutti. Abbiamo però fatto anche un'operazione di memorialistica, ed è una cosa che mi volevo riagganciare a lei. Cioè, sono d'accordo con lei sul fatto che la letteratura da una parte può essere, sì, forse non informazione, ma sensazione, emozione che ti può spingere, certo, a un percorso informativo, mm-hmm, più, mm-hmm, no? Ti può sollecitare, suggestionare, ed è per quello che anche noi volentierissimo ospitiamo queste cose, perché poi abbiamo tutta una serie di libri, anche legati a questi argomenti, che possono essere presi ad ampie mani e incominciare a capire anche, per esempio, la storia del nostro territorio, certo, che è un laboratorio a cielo aperto, perché noi abbiamo avuto qui la missione, certo, la Furland, certo, e via dicendo. Quindi abbiamo anche tutta una serie di, con la lente si può vedere anche quello che è stata una storia europea, mondiale, anche sulla nostra gente, su di noi, e tutte le nostre famiglie sono state coinvolte in questo senso, credo, per una parte, per l'altra, in tutti i sensi. Quello che personalmente, e condivido anche con altri miei coetanei, è il fatto che in Italia probabilmente c'è stata una rimozione. De Gasperi diceva: cosa devo fare a questo punto? Sono state tutti fascisti, non posso costruire un'Italia ricordando a tutti che sono fascisti e mettendoli tutti in prigione, tranne i pochi partigiani, le persone che sono riuscite ad estraniarsi, eccetera. Però è anche vero che noi oggi viviamo, e lo sentiamo in maniera diversa, non dichiaratamente e culturalmente elaborata, però c'è una divisione ancora oggi che ci portiamo dietro. Secondo me c'è ancora una scissione, una cesura netta in Italia fra le due linee. Ed è questo che questo salto non si riesce a fare. Insomma. Questo bisognerebbe farlo a scuola. Mi posso permettere? Sì, c'è un insegnante qui adesso. Però eccolo, certo, là. Che si potrebbe fare a scuola, e si potrebbe fare anche puntando sulle biblioteche, puntando sulla cultura, cosa che chiaramente, soprattutto ultimamente, certo, si vede. Certo. Con le scuse dei tagli, insomma, a livello anche nazionale, il primo posto dove si va a colpire anche è la cultura, chiaro, ma questo è anche comprensibile. Un popolo colto è molto difficile da sottomettere. Questa è una cosa fondamentale. Posso dire, prego, ecco, ad intervento. Una parola in difesa non della scuola ma degli studenti, che non è vero che sono così superficiali, disinformati, e almeno nella provincia di Bolzano vi assicuro che la scuola lavora moltissimo, nonostante siamo continuamente assediati dalla burocrazia, dalle leggi, dai tagli. I miei studenti 6 anni fa sono stati a vedere la mostra ospitata nell'atrio dell'università sulla Rosa Bianca, hanno visto il film in lingua tedesca e in lingua italiana. Di storia l'anno scorso avevo una quinta, siamo arrivati al sequestro Moro, non è vero, facciamo solo il babilonese, vi prego di avere un po' più di fiducia nella scuola e soprattutto negli studenti, nei giovani, che se messi di fronte alla cultura lavorano molto bene. Bisogna avere molta fiducia nei giovani e non invece sentirli sempre come... No, ma io non sono contro i giovani, sono contro i professori, caro amico, sono contro i professori, non contro i giovani, poveri. Siamo, nella mia scuola siamo 90 insegnanti e ognuno fa qualcosa. Certo, poveretti, vi compiango molto, però qui siete a Bolzano, ma nel tutto il resto dell'Italia... Come dipinge Brunetta e la Gelmini, siamo persone, io vengo qui, tu sai che io non potevo venire perché... Sono impegnata a scuola in un corso di aggiornamento di storia. Ah, proprio di storia. Ma guarda. Con un professore dell'Università di Milano, siamo qui e lavoriamo, ci informiamo, studiamo, informiamo i nostri studenti, organizziamo percorsi extracurricolari. Cioè, abbiate un po' più di fiducia nella scuola. No, io l'ho capito che tu sei innocente, questo lo chiamo. Posso dire una cosa? Sì. I miei figli hanno fatto tutti e due il liceo tedesco, sì, e non hanno fatto nulla di questo. Insegno il liceo italiano, signora. Ecco, no, io posso solo dire che la scuola non è solo il liceo italiano. Io parlo della scuola italiana. Ci sono diverse realtà, diciamo così. No? Ecco. ecco. No, ma volevo dire una cosa. È uscita una settimana fa circa, è uscito un sondaggio fatto qui in Italia, dove è venuto fuori un dato allarmante e preoccupante. Il 43% di questi, adesso io non ricordo più la fascia di età, ma abbastanza giovani, si è dichiarato anti-ebraico, però non lo considerano assolutamente un fatto di razzismo. No, per loro non ha nulla a che fare il razzismo con l'anti-ebraismo. Ecco, questi sono i dati italiani. Scioccante. Tanto per dire, buttare una cosa lì così. Io non ci credo. Non ci credo. Il 43, no, anti-ebraico c'era scritto sul sondaggio, il 43 di questa fascia, adesso dovrei andare a ricercare l'articolo per vedere esattamente la fascia di età, perché questa non me la ricordo assolutamente, però è una cosa secondo me allucinante. No, ma soprattutto questo che mi sorprende è che in Italia l'antisemitismo non ha avuto molte radici. Non ha un passato, non ha un passato come in Germania, nei paesi dei Balcani, con Russia, eccetera. L'Italia, da questo punto di vista, è sempre stato molto neutrale. Fino a un certo punto. Pontificio, no, non era affatto neutrale. Sì, però non venivano perseguitati, non c'era un pogrom. Qui in Italia non si conosce il pogrom, cosa che si conosceva lì sistematico, che era sistematico fare dei pogrom. E questa è una cosa che io ho pensato, ma guarda, non sapevo, in Italia effettivamente non c'è questo, veramente questo risentimento contro gli ebrei. E quindi questa cosa quindi mi sciocca, sì, ancora devo, di più. Mi dispiace, potevo pensare anche di stamparla, perché lo è molto, molto problematico. Anche perché ce ne sono così pochi di ebrei. Ma certo. Ma questo non, secondo me non ha niente a che fare con questo, cioè una questione... statistica probabilmente, è sempre come vengono poste le domande. Sì, sì. Se vengono poste le domande e dice, lei è d'accordo con la politica di Israele? Uno dice, no. Allora è anche ebrei. Perché poi si è partito proprio tutto dal non condivido la politica nei confronti della Palestina, però è diverso. Sì, però ti viene posto poi come un dato statistico, però è sbagliato, non è da credere assolutamente, perché non credo assolutamente una cosa del genere. No, questo è veramente accidente. Tante volte quando fanno le domande sicuramente sì, sì, sì, rispondere o sì o no, allora non rispondo, che quando fanno un'indagine allora io non rispondo e basta. Certo, è vero. È bravo, esatto, questa qui è la manipolazione. Condensando il discorso di prima, si può dire che ovviamente l'ignoranza fa molto peggio della cattiveria, insomma. È letale l'ignoranza. Veramente no. Posso chiedere una considerazione? E cosa sarebbe successo, a parte che a me i tedeschi mi sembrano sempre che abbiano un atteggiamento di superiorità, comunque, quando vengono in Italia? Non so se è una mia sensazione, ma io li vedo sempre loro che portano i soldi, loro che qua, certo, loro che hanno un sacco di soldi. Cosa sarebbe successo se avessero vinto la guerra? Perché mi sembra che questi sentimenti siano proprio questioni di umiliazioni che hanno subito per la perdita della guerra, più che un rimorso per quello che hanno fatto. Allora, devo dire subito una cosa, che normalmente l'arroganza nasce dall'insicurezza, perché una persona sicura di sé non ha bisogno di essere arrogante. È vero. E questo qui purtroppo è un dato di fatto. Questa è la mia risposta. Hanno soltanto i soldi, allora quelle persone che vengono qui e fanno tutte così, in realtà gratta gratta viene fuori una persona estremamente insicura di sé, e questa è la realtà. Io vorrei citare un caso, un problema, no? E quando tu dicevi vieni in Italia senza il biglietto, perché hanno una grande ammirazione per gli italiani che trasgrediscono continuamente, però l'Alto Adige l'assicurazione delle macchine e delle auto è la più alta, e perché sono i tedeschi e i germanici che fanno un sacco di incidenti, perché quando arrivano vogliono fare come gli italiani, ah, beh. Cioè trasgredire, però non riescono a trasgredire bene. Davvero questo, cioè è più alto questo il livello. Non so se lo dico io, però insomma, per noi trovare un sociologico sull'incidenza è veramente ottimo questo esempio. Vogliono trasgredire, però no, non lo sanno fare, perché poi inchiodano, quando vedono i 50 inchiodano, tu sei dietro e sei tu che ti tamponi, perché tu dici certo, vai, ma dai. Va bene, c'è ancora qualcuno? Credo che abbiamo finito con una bella risata sui tedeschi, che non è poi molto facile, ridere dei tedeschi è molto difficile. Va bene, grazie mille ancora.